bella come ormai sono nato, a qua io sto bruciato perché per tante distese che abbiamo sono meravigliose. Questa terra meravigliosa, l'amore per sta terra non deve finire mai. L'amore per sta terra deve essere in velo. È bello stare in mezzo al verde, in mezzo a tante cose come così. Allora canto e sento quel suo splendido fatto così, così, così. Se io canto, se io rido, se io piango, se io canto, se io grido, ah ah, sì sì così. Un grido si alza e passa piano, un grido si alza nel cielo, un grido nel Salento, che bello quando lo sento. Quando lo sento, quando lo faccio, quando lo penso, quando lo grido, quando mi piace la base, mi piace se rime, mi piace così. Lassame, un canto, lassame, te spiego quando te sento più sincero, quando lo faccio del capo me ne va. Allora, quando voglio con canto, quando voglio pure con penso, e questa è la terra mia, iata proprio ci la pulia, e tanti suoni, tante culture, tanti amori, tante cose, tutto dal cuore, poco parole, verso il cuore. Questo è lo stile, questo è l'amore, fatto così. Allora! E poi! Il sole, il mare, la terra è bella come a un sonnato, a qua io sto bruciato perché per tante distese che abbiamo sono meravigliose. Questa terra è meravigliosa. Fanne qualcosa, fallo col cuore, queste parole, poi con amore, questo è lo stile, allora fallo così. Voglio con canto a quai e canta. Voglio con canto a dai e dai. Se il suono non si fermerà poi mai, oh mai, senti sto stile fatto così, con l'amore che viene dal cuore, perché si fermerà e dai, e poi ripartirà. Il suono, il mare, il vento e tante culture, come no? Se penso, se vivo, ci sarà un motivo, se piango, se dormo, se penso, questa vita è così, è così, è così. Con la mente e con il cuore, questo è lo stile fatto con le parole, che bene mi fa stare con me stesso, con le persone. Quando voglio penso, quando voglio